Cannella con la sua specialità, vera che lui ha fatto tipo una specie di, c'aveva gli Rosimino bisogna Guzzenni, l'altro gli Spiedini, l'altro visto Riccardo mi pare si chiamava uno, l'ha detto era per esaltizioni, per propaganda, tutta bosi, che bello mi, bello, bello, bello come dici tu. E no che invece questo gatto dice non si può fare nulla, no? Beh allora, non si, oh yeah. Più che alle feste, tipo festa di San Gavino, la festa di l'altra cosa, quella di Pozzo Maggiore, che fanno questi banchetti di arrosto, di pesce, di carne, se no non ce ne sono altri, qua non ce n'è altri, perlomeno. Bah. E vabbè, mi è venuta così perché ho visto di queste foto sul video che stavamo a mangiare a questi tipi proprio a mani nude, salsiccione, per la salsiccione, per carità. Vabbè, però è una cosa bella da vedere, dai, ti dà un po' di sozzume, cioè però. Ehi, ma se sei notato, c'è un sacco di gente che compra, che anda, e sta di magnendi e tutti, e dicono tutti che è buono, vuol dire che la fase ne vera cosa è fatta bene. Poi c'era l'altro, non l'hai visto, che stava tipo tagliando, cosa era, trippa, non so cosa era, tipo a freddo era però fatta. E si ha fatto un coso, una specie di guassa, di... su Maria Giumasi di Magnamista che ti di Ghiddu. Eh sì, già va bene però, là. Sì, lì è spettacolare. E poi i siciliani sono tipo come noi, a livello di pastorizia e di gol. Anche di frutti di mare, di queste cose qua. Chi vira l'altra, ho visto un altro video dove c'era una bancarella, cioè ha aperto delle ustriche e delle cozze che danno i roghi se li sogniamo. Allora, non è che ci sogniamo, io te lo dico per certo, te lo dico perché li ho fatti io, non sono uno di quelli che ingrandisce le cose. Io ti dico anche un posto dove fare le cozze, ne ho riempito un tavolo pieno io, ma in giro di, esagerando, mezz'ora, ho fatto tante di quelle cozze, Gianni, che la più piccola erano tre di quelle normali che compri. Stando, ma pure burgette le scarpe. Che buone che erano, che... Ehi, ciao Gavi, buon pomeriggio! Beh, Gavi. Nelle scarpe. E allora, Gavi, no? Sì, buonasera. Allora, quel cosidà che ti ho fatto stamattina, li avevo dati io a Antonio anni fa, non sapendo cosa erano. Ma da sapere che quello è un mostro che anche le cocenti le spaventano di quella roba. Sì, dai, ti puoi recuperare il trasformatore di corrente, ti puoi recuperare gli strumenti, l'attacco dell'antenna, adesso non ci ho pensato, il tastino, on off. Ah, sciappelle, sta roba da buttare. Senza che la recupera 100 euro, ma quando la recupera tesi, 15 euro di roba neanche, lascia perdere te, con la mondezza. Momentaneamente possiamo ancora prenderci la roba nuova. Sì, vabbè, ma te ripeto, io quelli li avevo recuperati, perché l'ho trovati a casa di Walter, e mi sono portati via, l'ho trovati a lui. Però ti dirò la verità che non sapevo neanche cos'è. Vabbè. Allora, mi interessa uno... sono come il mio, ecco. Il 5005 con l'osmetro, wattmetro della ZG, un SX400 e uno l'RMI piccolino però da 30 watt credo che sia, cappelle 300 c'è scritto, il tutto a 400 euro, vai fino a Masciotto, vai di la magna siburu, la buccia delle cozze, vai. No, gli sto dicendo a Gianni dove ho fatto delle cose io quando stavo lavorando lì al produttore, se mi sento andare molto lontano, che ho fatto delle cozze enormi, facevano anche schifo da quanto erano grandi. Cioè tu immaginati tre cozze di quelle che compri adesso, le metti assieme e facevano una di quelle cozze che prendevo io. Ci sono cozze da mangiare? Sto arrivando, eh. Mi chiamo Piero, Piero Le Cozze. Ciao, tu sei il produttore, sono per venire. Ecco perché mi chiamo Piero Le Cozze, non so se Calvino si ricorda, io c'avevo la bancarella lì all'entrata del porto. Sì, che poi sei diventato ricco e ti hai aperto il bar, così. Sì, è diventato un punto proprio, un punto verde. Siccome ero sempre in rosso me l'hanno chiuso. Esatto. Il verde è come la linguetta che si toglie dalle cozze, quindi tutto abbinato. Ciao Claudio, buonasera, ben sentito. Ciao ragazzi, buonasera, ben sentiti anche a voi, con la speranza che mi ascoltiate. Ciao Tino, Gianni intanto non mai corta, è sotto. Ciao Gavino, ciao anche a Gianni, vai ti. Marco non ti ascolta, sei 9.15 qua, quasi 9.20, ciao Claudio. S9, 9.5, quindi dovrebbe ascoltarti. Ah boh, non so che si ascolta in FM. Attento Sampei, quello con la canna a pesca. Non ti ascolto, no, non ti ascolto. Non lo so, ma è una cosa un becchera, Ma è impossibile. Porca miseria, non ti accorgi, tu che è 80 metri più in alto di me, capita, ed io gioco 30 un buco e ti accorgi 9.5, boh, chi è un mistero, eh. Non lo so, c'è qualche problema sicuramente. Guarda, io stamattina ero da Eugenio a Porto Torres, ok? Che c'ha la radio, quella questa che sto usando io, eh? Chiamava, nessuno intendia, e lui sentiva i segnali bassi. Sono andato, l'antenna in corto, la game master, mi sa antenna in meta, in corto. Il vento deve avere come flette, deve aver spezzato il cavo di massa all'interno, quel cavo che sale dritto, no? Che è attaccato alla bobina. Ma non c'ha la Mantova, cose Eugenio, l'avevo visto con la mano, io quando... A volte sono passato, io avevo una Mantova turbo, mi pare. No, Eugenio ha avuto la Energy 5 ottavi, che è simile, vabbè, è una verticale 3 radiali, e poi quella lì lo stesso, il vento gli ha rotto tutti i gabbiani, gli hanno rotto tutti i radiali, ha portato la Game Master. Quanto era la Game Master? 2 anni, 3 anni, è in corto. E con questo che ha fatto un danno allucinante alla radio, ma allucinante Baromi. E cosa c'ha quella radio qua? Scusa il ping pong, cosa c'ha quella radio? Cosa c'ha la radio? C'ha tutta la parte delle VCO tutta bruciata, perché ha schiacciato la portante, prova che ti prova, mi sentite, pronto, ha bruciato tutto il VCO, tutto niedo, tutto nero. Se ci vuole fare il VCO per un 140, 200 euro, poi 20 andare, 20 a tornare, sono 2,40, io gliel'ho già trovato usato a 200 euro, capito? Dubito, questa radio ce l'avevo contata di mandarla da quel signore con i capelli bianchi, quando ha giocato il 4,40, mi ha rivisto 4,40 e alimentatore, quindi deve prendere, deve mandarla lì. Signori, vogliono gli HF, bisogna ripararli. Da Bianconi si risolve il tutto, non dai porcaccioni, fa anche rima. Vai Tino. Forse non ho preso che nessuna coneraggio comprare un'altra, non la vuole riparare quella, ne hanno comprato un'altra, ok, da un tecnico di Alghero, Gavì, e gli ha dato 100 euro per quella vecchia e 200 euro gli ha venduto quella nuova, gli ho installata io fiammante, nuova, non ci aveva manco decimali, gliel'ho messo io i decimali perché non ce li aveva, capito? L'ho portata qua, gliel'ho tutta memorizzata, messo i decimali, provata, l'ho tenuta un paio di giorni e la radio è perfetta, capito? E con 200 euro ce ne ha comprato un'altra. Vai Tino. Nuovo di 40 anni, però nuovo. Vabbè, no, giocano bene con le radio. Non è che vabbè. Comunque volevo chiamare a Gianni. Ehi gappa. Ma tu non senti a Claudio? Sì che lo sento, come si posso dire, rauco, strano, però già lo sento. Boh. Claudio, vegliati, sei rauco, sei rauco. Mettiti un po' di bruciolina, ma cosa del genere? Non c'è un raffreddore, io, dove va un raffreddore? Grazie a Dio. Questa radio funziona che è una meraviglia. Non problem, non problem. Ok, capito Gavì com'è andata? Perché mi sono subito messo in moto, perché mi ha chiamato subito. Gli ho detto va bene, ti do una mano, vediamo un po' cosa. Ho fatto una telefonata lì dove hai mandato la tua, ok? Anzi, dove hai mandato la tua mi ha detto che non ci aveva, che praticamente era incasinato, che non lo potevo mandare per fare un preventivo, perché lui così voleva e così ho fatto. E allora ho chiamato ad un altro, gli ho spiegato qual è il problema, eccetera, e mi ha detto mandami le foto, gli ho mandato le foto, tutto bruciato. Però ho detto orientativamente, lira più, lira meno, mi ha detto guarda, già è molto strano perché il 140 rispetto al 440 e al 430 hanno due conversioni, quindi è molto più forte. Però qua è entrata un colpo di RF di quelle allucinanti, infatti ha modulato con l'antenna in costa e ha mandato il PLL a massa e quindi si è bruciato tutto, capito? Allora, ad Alghero c'era uno che io mi ricordavo che praticamente non la stava più usando, un vecchio radioamatore, che poi era anche CB, gli ho telefonato, mi ha detto sì, ce l'ho ancora, è dentro la scatola, mi ha detto, l'ho rimessa a posto perché io non la uso, ho altri tipi di radio, non mi interessa. Tu mettimela da parte, però ti devo fare un'offerta, qui era, insomma, mi ho fatto una chiacchierata e me l'ha data. E adesso c'è la radio praticamente nuova, Tino, dico nuova perché è nuova, cazzo è più nuova di Ghita, e questa io la opero bene, non c'è un graffio, quella è lucida, nuova, non mai l'operata, non aveva manco i decimali, siccome io so come si fa, l'ho accesa tenendo premuto clear e appaiono i due decimali, poi gliel'ho tutta memorizzata, l'ho dato appena appena in più di LC perché lui intanto la usa in M, l'ha già provata, una ganonata. Sì. Andava, no, io il mio l'ho fatto riparare, mi è arrivato due settimane fa, anzi, cioè la settimana scorsa, non due settimane fa, la settimana scorsa, tutto ok, nuovo di pacca, che ci si può dire che è nuovo, con tutto, questo qua è la linea nuova, vecchia ma nuova, alimentatore rifatto a nuovo, tutto, cioè proprio il foglio di cosa ha rifatto anche nella radio, quindi questa può essere garantita per 6 mesi almeno, e c'è anche il coso, il fattura di quanto ho speso, bella, la dita non trema, vai Tino, mollo un attimino e riprendo subito. Sì, no, io guarda, non devo comprare niente, quindi non, anzi, ti dirò la verità, che mi basta quest'angolo di paradiso che ho, nel senso che non mi sarei mai sognato di avere determinate radio e determinate cose da poter utilizzare, grazie ad alcuni amici e, come si dice, anche quelli che ti consigliano giustamente. Va bene così, grazie ad amici che ti fanno antenne, che te le aggiustano, che te mettono tutto quanto. Io sono arrivato al top, nel senso che mi basta quello che ho. Poi se si vuole migliorare, si migliora solo ed esclusivamente con i soldi, nel senso che le radio ci sono, toccherà alzare un traliccio, ma non mi interessa proprio, anche se la possibilità di farlo c'era, ma non ho voluto io, perché come dice un amico mio sempre, ed è noto anche, grandi sistemi, grandi problemi. Vai Claudio. E si conferma, lo sai quante volte te l'ho detto, io qua ce l'ho la possibilità, mi ha bugato la Carbonazzi, ce l'ho 5 elementi a Carbonazzi in mansarda, ce l'ho la possibilità, il rotore conservato dentro l'armadio, tutto conservato, ce l'ho la possibilità di fare un buco e punizio il traliccio, no, non funziona così, io devo dormire la notte, devo dormire, non me frega niente, no. Ehi a Gavino, ti ricordo che quella radio era la mia e quando gliel'ho data, ok, era praticamente fiammabile, non infiammabile, fiammabile. Era perfetta, perfetta, perfetta. Purtroppo può succedere, a quei tipi di radio può succedere. Però quando trovate a te era a posto, il fulmine non perdona, l'RF non perdona, non perdona. Lui ha fatto un danno troppo alto, e quindi l'ho consigliato io. Ho detto scusa, vai a spendere 240 euro per metterla a posto, ed è sempre una radio riparata. Ok, anche se gliel'avevo data io, a chi era nuova nuova, Brughiscia, nuova, io le radio ce le ho, nuove, già hai visto un 450, nuove. Ok, quindi un po' mi è dispiaciuto anche a me, però ho detto alla fin fine io ti consiglio di fare una cosa, se hai pazienza mi metti molto e te la trovo, perché te la trovo, non ci sono problemi, e così ho fatto, e però non è mai riparata, perché la radio non è mai entrata in laboratorio, nel senso che è nuova di questo sistema, no? Del sistema che non è mai stata riparata, non ha mai avuto danni, mi capito Gavi? Però sono radio Vici, io la ce la attendi, io questa ce l'ho esattamente dal 1000, no, dal 1000 no, perché questa è una delle tante, però questa mi pare sia una delle ultime, forse ce l'ho una quindicina d'anni, 13-14 anni, eppure il problema non me ne ha mai griato, come il 440 che c'ho io, lo stesso, di vecchia generazione, ma funziona perfettamente bene. Vai Gavino. Sì, sì, sì, è claro, però purtroppo l'accidente può farà tutto, l'accidente può farà tutto, quindi dovevo farlo e farlo fare bene. A chi va bene, sia l'inventatore che la radio, siccome me l'ha dato una persona che se l'ha tolta la bocca per darla a me, quindi l'ho aggiustato, poi funziona bene, perfetto e niente. Va bene così. Scusate ma mi allontano un attimino, che mi metto alla faccia vostra, mi metto un rosso bello, mi riprendo subito. Vai Tino. Andà bene, cos'è? Ma con 440, con 430 sì. No, no, io sono con 140 adesso. Io ho tutta la linea 140, ho messo a posto anche l'alimentatore, già lo sai chi, che ci avevano integrato bruciato da anni, e adesso ho fatto tutta la linea, mancava solo l'alimentatore. PS50, T250, 140, SP430. Il 440 è qua. E non so se c'è qualcuno. Buono. Questo è il 440 che ce l'ho in 20 metri e in 10 metri. L'altro ICOM invece ce l'ho in 40 e in 80, 575 della ICOM sempre in 50 mega, e poi le solite V e U, insomma è tutto il baravano. Io con Tino già lo usa, no? Ma me l'ha fatto perché siamo sempre noi, no? Sempre noi, ma ho fatto un danno al 575H, quello dei 6 metri, allucinante, un PL, stavo parlando dei 6 metri, io, Roberto e Agostino, in 6 metri, in FM, ha giunto lo Smith, boom, è andato a terra, ha detto, ma cosa è successo? Ricezione zero, trasmissione zero, ho bruciato tutta la parte del ricetrasmettitore, fortunatamente quella persona che tu ben conosci, il nostro carissimo amico tecnico, aveva pezzi di ricambio della ICOM e le schede sono uguali a questa, ha tolto le schede bruciate e ha messo le schede nuove, figura di due, un danno che ha aggiunto per un PL, se lo mandavo da Bianconi ci volevano 200 euro. Sì, sì, sì, ma no, ti volevo chiedere una cosa, prova a togliere il processore. Perché è troppo alta così e ti? Sta tenendo a strappare. Oh cacchio, vedi, io queste sono cose che non so perché. Non l'ho, è anni che non la uso in FM questa radio, la uso solo con voi. Ma le LC sono dentro, le LC, fammi vedere. Sì, sono dentro le LC. Ma hai migliorato molto il radio, hai migliorato molto, molto più chiara. Stava andando a tratteggiare. Perché c'ho questa voce da orco, cazzo, gli ho detto a mamma, invece di farmi la voce da orco, mi potevi fare il pisellino da orco? E invece ha capito il contrario, anche a Mecca. Ma dimmi tu queste Romeo, porca miseria. Infatti gli dico sempre, mamma c'ha 94 anni adesso. E l'ultima volta aveva giurito, perché sono andato ed era un po' con la voce alta, no? Figlio, mamma Bulucinva 94 anni, non è sorda, eh? E io lì gli ho risposto, ho detto, mamma l'hai fatta tu la voce così grossa. Se invece di farmi la voce così grossa mi facevi il pisello, era meglio, se poi arrivi. E allora, Gianni. Che c'è? Come lo senti a Claudio ora? Lo sento un pochino meglio, però non lo so, troppo saturo, sembra dentro a un barattolo di cristallini, tutto in mattolenti. Non è saturo, che non ha l'ambulazione perfetta, è saturo. No. Tu cosa stai usando? Il Saturneco? Sì, ma voi vi sento bene, benissimo, a lui lo sento... Non lo sento come sento a voi, magari forse perché è lontano. No, perché è gracchiante lui, già anche di persona. Grazie. Passato non è molto. Aspetta, stavo bevendo un goccio di birra, che... Bevi, no, io sono ramalati, ho deciso. Stavo iniziando a fare fatica, poi con i problemi che ho alla schiena, mi ha visto il medico ultimamente, sono andato per fare le analisi, e mi ha detto, ma hai finito? Cosa devo fare? Hai finito? Eh? Che fra un po' non ti vedi manco il pisello, sto troppo gonfio, perché sto prendendo anche il cortisone. Allora ho mollato tutto e sono già una settimana in Ramadan, solo acqua, molte verdure, pochi carboidrati. Così giusto per fare un po' di pulizia, mi poi magari riprendo. E gira, te l'ha fatto il vino con la pancia? No, anche, guarda che io sono un buon gustaio, eh. Io l'aperitivo me lo faccio tutti i giorni, e quando mi faccio l'aperitivo io dai pur certo che mezzo litro zeffi a rovolo, Rosogo, però vabbè dai, io credo a tutto, ma non credo che il vino possa uscire la panza, perché il vino, guarda, la pancia la fa uscire la birra, il vino ti può, lo sai cosa ti può far uscire? Il cecio in testa sei medicato al massimo, però il vino, se tu prendi, il vino è buono, non imbottigliato, buono, vino buono, non ti va zenuta, te ne bevi pure un litro e mezzo, non ti va zenuta, la pancia la fa uscire la birra e la roba con lo zucchero. Il vino rosso ha lo zucchero, però è diverso. Fa bene l'amico miottino a bere l'acqua vite che ho distillato. Non è bevete porcherie, bevete vino rosso e acqua vite. Vai Tino. Guarda, stamattina mi hanno regalato un litro rosso di Mirto, perché siamo usciti assieme. Mi ha regalato una cosa. Stasera l'assaggio, ti dico mai. Gradisco molto sì la covita, perché effettivamente meno zuccheri, meno tutti, però. Claudio beve la, Claudio non ci crede, deve bere il vino rosso, già lo sa che deve bere il vino rosso e già gli piace, è buon gustaio anche lui. Fratello, vino rosso, acqua vite, l'altra roba buttala via che non serve. No fratello, io super alcolici sono anni che non ne bevo. Posso assaggiarlo, sì, se siamo a un pranzo, a uno spuntino, tutti insieme, eccetera, ma durante il giorno non riesco a berne, e ti dico il perché, perché mi vengono i singhiozzi, mi va zitto questo senso di coso, capito? Il vino rosso lo bevo, cazzo ce lo bevo, ma stai scherzando, io bevo il vino rosso, non ne vengo bucarì. Poi se c'è un goccettino di mirto buono lo posso anche assaggiare, ma roba fatta in casa, cose così. Una cosa di bosciudì, una mazza caffè, mi bosciudì una... ma un goccettino di... però non sono amante dei superalcolici. La birra mi piace sì d'estate, d'inverno non ne bevo, e basta, Gavì. Però forse è come stai dicendo tu, anche il mangiare, perché a me piace molto il pane, quindi rubanino, una mortadella, e romanzano, sai, due salattini, due cose, e noccioline, e quello e quell'altro. Infatti ho mollato un po' queste cose. E il vino già me lo bevo, anche oggi me l'ho bevuto un bicchiere di vino a pranzo, non è quello il problema, però fuori non sto toccando più niente. No, io invece a pranzo non ho bevuto un bicchiere, a pranzo non ho bevuto quasi un litro, e poi mi sono coricato. Come ti dici, chi toma, perché chi toma chi tu paesi, come mi buffo un litrino, mi imbriaco e mi cagoco, hai visto? No, un litro no, però dai, oggi qualcosina l'abbiamo buttata giù, dai. Ma fa bene, non è che fa male, l'importante è dopo che si beve qualcosa così, soprattutto il vino, bisogna fare un po' di movimento, non bisogna stare fermi, almeno così dicevano gli anziani, meglio due bicchieri di vino, che un pasto fritto o cotto male, capito? Meglio due bicchieri di vino che un pasto fritto o un pasto cotto male. E ci avevamo ragione. Adesso prendo, quasi cena già, Queste, io devo stare a quello che fanno le mie signore, quindi si cena. Riprendo dopo. Claro, per il singhiozzo devi fare una cosa, devi andare da qualcuno, da quello che ti mette una cosa dietro, però deve avere il coso, l'indice consistente, altrimenti non passa il singhiozzo. Dai, tutto un HI. Ci sentiamo dopo, vai Tino. Tutte le cose sono buone, dai, l'importante è che funzioni. Ah, già funziona, mi ha detto frate Melci. Calvino lo sa. Zio Giulio Varracò dizia, me vigliono e tanto l'odorone che antena frigidura, bruvara. Chi va via? Un nipote che era mezzo gay, capito? Per un dire altro. E quindi diceva, zì, ma è tu, ma è nipote, non ti preoccupare. Tutto era un primo momento, ma voi non è tanto l'odorone che antena frigidura, zia. Sto Varracone era assurdo. Vai giù il capo, canta la iatturina con l'occhio celeste. Allora, te la metti che hai domandato a Mugliuri, ma come si chiamava, non me lo ricordo. Ho detto, ma, zia Pinu, ma chi tutti i migliori fanno l'occhio celeste? A chi ci odia me fa la iatturina celeste? A chi ci doveva? Ehi, parlo di parolacci, ma lei non ha detto così, no? Io da giudito così, ma l'ha detto la parolaccia, no? Capito? Per carità, era una cosa, abitavo, guarda, io le risate mi facevo, guarda, poi Federico era a scuola con me, no? Quello che c'aveva il braccio, che poi era entrato all'ospedale, poverino, mi sembra che è morto. Chissà famiglia, so, tutti quell'occhio celeste, così era, ma, dai, sentiamo dopo, poi vado a cenare, vai ti. Ma la bambina c'è lì? È in cucina. Non ve ne sono? No. E la domanda va di ti, Giambino, ma chi tutti i miei fanno celeste? A chi Giulio mio va la camboccia celeste? Questo è questi sono personaggi, A dopo. Ma questa gente di produttore? Allora. Ah, vabbè, io non pensavo che c'era altri tipo quello dell'argentiera, dai. No, Gavino, poi con Francesco, il padre di Gavino, che eravamo tutta la grefa, Francesco, Pietro, ma insomma, tutti quanti, era Antonio Tappino. Insomma, tutta la greffa di Divia Libio, Etanotretta, eccetera, e noi ci divertivamo con Zio Giulio Verafede, si chiamava di cognome, di Soprano e Varracò, ma guarda, ci faceva morire, un bestione era mio, un uomo ci ti cuia un gioco allora, che ti caputtava, persone anziane che abitavano lì nel mio rione, capito, ma per carità, cosa combinava, mica. ci rifaci li racconti Francesco proprio di buonanotte di Calvino, guai, era una cionfra quella via, tra via Alfieri, via Sicola, via Libio, uia, lascia verde. Vabbè. Ui, sono stanco, ho fatto il pennichella oggi e ti dirò che la sento dura, vabbè, adesso mangeremo qualche cosa. È uscito a fare un po' di spesa con la sorella Marisa, adesso torneranno con un 4-5 buste, vediamo cosa hanno preso. Vabbè, avevano preso roba da mangiare, no? No, io sì, mi siedo però nel divano dopo pranzo, mica era maglieggio e bussato mentre ugavado così, un cappotteggio, però non mi sdraio più perché e non mi corico più, soprattutto qua in cameretta, io ho lettino anche qua, mi sdraio d'estate per la finestra, tutto la via accesa, mi riposo, perché la notte non dormo, poi mi sveglio subito. Perché ho dormito dopo pranzo. Allora sto resistendo, 11 e mezza, ma massimo mezzanotte meno quarto, sono cucaputtato. Mi corico e apro gli occhi alle 4 e 5 del mattino. Oh, io appena appoggio la testa, proprio molte volte mi sveglio che sono già forse una volta mi alzo per andare in bagno e sono tipo le 4 così. No, io non mi alzo per andare in bagno, è difficile. Lo faccio prima di coricarmi, poi è difficile, a meno che non abbia bevuto roba che mi fa andare in bagno. Se no, però mi stava prendendo così. Invece un paio di giorni, infatti di notte, già hai dormito, ci stavi anche rusciando io, e vai, che era lo ginghiale in voga. Perché quando sei stanco, io russo. Infatti una volta mi sta bugando, ascolta, vattene, vai, sono venuto qua in cameretta, mi sono coricato qua. Sì, poi alla fine conviene. Ehi, poi adesso che non c'è più il cane. Cioè, non c'è più? È morto lunedì, cos'è oggi? Sabato, lunedì di questa settimana, lunedì sera. Davvero, poverino, vabbè, sofferto. Assolutamente no, perché stava male. Praticamente si alzava dalla cuccia e cadeva, poi è caduto, praticamente si è sdraiato e si è fatto la pipì addosso, si è rotto le balle, l'ho tutto pulito, fatto, l'ho portato al veterinario, gli ha attaccato subito la flebo, era in metastasi, aveva due tumori Filippo, quindi ha resistito anche troppo, gli ha preso tutta la parte posteriore delle zampe, era vuoto, si contavano tutte le costole, da 28 kg che pesava ne pesava 16, quindi era, però ho detto io lo lascio, vediamo se dove arriva, gli ha attaccato la flebo, c'aveva gli occhi aperti, io lo accarezzavo e dai nonno, dai, ti stai riprendendo, però respirava un bel male, mi sono girato a parlare con dottor Ranfossi, la Baiddu molto. Io invece a Chira sono arrivato che era già il giorno prima, diceva, era in terra, sofferente, non si muoveva da lì. Mi guardava, l'ho tenuta così, l'ho accarezzata, quella e quell'altra, ho detto vabbè, chissà, che dura un'altra giornata. Poi in avanti sono andato a lavorare, quando sono tornato era già caput. Diciamo che Pietro, il marito di Nella, la stava accarezzando e ha tirato l'ultimo secchio. Male sono stato, male, ancora non mi sono ripreso, lascia perdere, mai più, anche se sono qua in campagna ci vuole perché ti fanno compagnia, il posto c'è, però non me la sento più, sono stato un bel male, io ce l'avevo a fianco a me. Io vivevo per questo cane, capito? Dormivo assieme a me, ecco perché io spesso dormivo qua in cameretta insieme a lui, perché le mettevo la brandina qua vicino alle radio, sotto le radio, a lui le piaceva molto ascoltare, sentiva il rumore della radio, eccetera, le voci, e io dormivo qua a fianco a lui. Se non ci stavo io, non ci stavo, allora veniva in camera da letto, cioè aveva due brandine, quindi non vederlo, non c'è più quel cane, le brandine, le cose. Ci ho buttato via tutto, non ne voglio più sapere, in questo momento non ne voglio più sapere, sono stato un bel male, ma un bel. Ma guarda, a me mi ha fatto la stessa cosa, insomma, mi è dispiaciuto, però sai, lì il cofino che avevamo noi, che in casa era la padrona, dal giorno io ho detto adesso tutti i cani che prendo finiranno più, perché lo fa, capito? Io questo qua lo stesso mi piace, ce l'ho, il mio coccolone, tutto ciò che vuoi, però c'è un pezzo in me che dice non ti devi affezionare più di tanto perché sennò poi fai male, ed è così la verità. Lo so, tu immaginati che il mio non aveva dormito fuori. Io ce l'ho avuto, stava per fare 14 anni Filippo, era già fuori della norma, perché un bulldog inglese 10 anni massimo, ma massimo. Lui essendo un fuori Italia, più grosso, ha durato di più, ma perché ha durato di più? Come diceva il veterinario, come ha detto il veterinario, ha durato tantissimo perché l'hai trattato bene, non ha mai preso freddo, non ha mai preso... Però purtroppo non si è mai accoppiato, mai. Quindi è stato un male quello, è stato un male, perché se il cane non lo fai accoppiare lo devi sterilizzare. Non c'è da fare, perché purtroppo non eccitando la prostata le vengono i tumori. Infatti è iniziato col tumore alla prostata, poi gli ha preso il testicolo sotto e ha iniziato a mangiare, gli ha preso tutte le articolazioni. Non si reggeva più dritto, capito? Alla fine è andata così. Sono contento che però non ha sofferto. Infatti quando l'ho messo in macchina l'ho messo nel fuoristrada, dietro tutto quello che c'era, ho messo la brandinetta sua, l'ho coricato, l'ho messo la fascia per non muoversi, la cinghietta sua per il trasportino, no? E poi l'ho preso in braccio, portato dentro, ma in un'ora, quindi è meglio che sia andata così, perché se mi moriva a casa era un casino. Invece è morto lì, ho chiamato Andrea Loriga e l'ho fatto portare via, capito? Al coso dei cani, a Giubbagaddu, mi è curtato un botto, però io non me la sentivo di sotterrarlo. Ah, e quindi cosa hai fatto? Come si dice, l'hai... Oh, aiutami. Sì, l'ho cremato, mi ha fatto il certificato di morte. Sono andato all'anagrafe canina, ho fatto la cancellazione perché c'è il microchip, capito? In base al numero del microchip ti fanno il certificato di morte, poi devi andare all'anagrafe canina a fare la cancellazione. Sì, è cremato, sì. Ah, no, io vabbè, non lo so se lo farò, perché qua chi la sta bene. Nel suo terreno, se ne abbia le luci, non è che ha fatto un fosso con l'escavatore, l'ho interrata bene e va bene, quando saranno anche gli altri. Prima non facevo così. No, io so, vabbè, Lilli lo stesso, Lilli abbiamo fatto il fosso qua, ci siamo occupati di fare una bella casa, tutto su di voi, però a fin dei conti, ognuno decide quello che è meglio, per dire, uno che conosciamo noi in comune addirittura ha comprato una cassa da morto di un bambino piccolo, di quelle per metterci il cane. No, quelle belli no, vabbè, lui viene, hanno delle sacche particolari, lo mettono dentro questa sacca e poi lo portano all'inceneritore, no? Scintore dei cani, e fanno tutta la prassi come fanno una persona, capito? C'ho la tecla sua, piccolina, con scritto Filippo, la data di nascita, la data di morte, basta. Ma l'ha voluto fare Ilaria, insomma. Abbiamo messo 70 euro per uno e l'abbiamo fatto, ma giusto così per avere un ricordo, niente di che. Io non me la sentivo, persone che me lo facevano, Andrea mi ha detto vengo io a rigare, no, grosso terremo, no, a rigare in chimi, no. Io il cane quando l'ho visto morto sono scoppiato a piangere e poi me ne sono andato, l'ho lasciato lì, l'ho detto otto, si arrangi lei, questi sono i soldi per portarlo via, si arrangi lei, io me ne sto andando, me ne sono andato. Certo, ma vabbè, io l'ho vista qua, l'unica cosa che ho potuto fare è chiamare il mio vicino, ho detto quando è che hai scavato il libro? Ho detto perché, cosa succede? Mi deve entrare un cane, ho detto vabbè, vengo domani mattina, è venuto, mi ha fatto il fosso e tutto è finito lì, capito? È un casotto, perché anche siamo così, sì, anche cremarlo, sì, se si vuole tenere un ricordo in casa, boh, io anche un domani mio figlio sto dicendo, va, quando sarà, mettete un po' di fuoco, bruciatevi, buttatevi in campagna, che se ne frega, ormai, tanto quando tratti bene adesso, quando non c'è più poi tra, si dà via le luci. Sì, ma anch'io sono d'accordo con te, non c'è problema per quello, solo che io scavatore non ne ho, a pare piccu, io non, a braccia non ce la faccio più, e quindi cioè, dovevo chiamare, fare, stare lì, vedere quello che stava facendo, no, erano straziati, e lei ha detto, papà, dai, facciamolo portare via ad Andrea, lo chiamo io, si conoscono, se no prende un sacco di soldi, e quindi ce ne siamo usciti con poco anche. Non è che se la biglia luci. No, non ce l'ho io la cosa, se l'ha portato lei a casa sua e l'aria non vive più con me. Se l'ha portata a casa sua e via, capito? Va bene così. Vabbè, pazienza. Io me lo sono goduto, grandi soddisfazioni, mi ha dato quel cane, me lo sono goduto davvero perché l'ho tenuto 10 anni, eh sì, 9 anni in condominio e poi tutto il resto qua. 5 anni faccia l'aprile e sono contento che è morto qua, ma poverino stava una sofferenza, per coricarsi lo dovevo aiutare io, la mattina non si alzava, a volte si faceva la pipì addosso nella cuccia, io ne avevo due, una la lavavo e le mettevo quella pulita, e sempre così, tutti lì così, perché non ce la faceva più a sollevarsi, capito, andare fuori, sennò Filippo non ha mai fatto la pipì dentro casa. Mi adesso scorrendo su Facebook, ma a volte il cane, il border collie gli è mancato. 6 giorni che manca, oramai non l'ha data più. Perché io stamattina sono andato a prendere un furgone, ho lasciato la macchina, c'era solo l'altro, c'era solo, non so neanche come si chiama, vabbè, quello lì, quello nero. Sì. Gli è mancato. Purtroppo gli è mancato, ma boh, io non gioco fino a fatto il cane. Ascolta, i cani non solo sono un problema per me, ma anche per chi come lui non sta attento. A me mi sono fuggiti da sotto la rete. Una volta li ho trovati a Coso, anzi due volte a San Camillo, l'altra volta dove erano, te lo ricordi? San Giovanni. No, più avanti San Giovanni. Un bel che davanti a San Giovanni. Cosa fa l'uomo, dove parti lì? Ma vedi, perché sono cani particolari che sono anche abituati a avvicinarsi a cancello, eccetera. Filippo non si è mai avvicinato a cancello. Io quante volte lavandomi la macchina d'estate, cancello aperto, la macchina fuori, e no, rimaneva lì in veranda, mi guardava, a volte si coricava in veranda, cioè, ma non si è mai avvicinato al cancello, non si è mai, assolutamente, capito, non è mai uscito, invece quel cane in Walter, tanto come vedevano il cancello aprirsi, via, boom, partiani, sai quante volte a me mi hanno fottuto, soprattutto il pastore tedesco, mi ha fregato un paio di volte, andavo da Walter, c'era il telecomando, aprivo, e così. Allora mi ho detto, no, tu scendi la macchina e mandalo via, che già se ne va, e poi entri, perché sennò ti usciva, e lì l'ha fottito Edo. Ma io gli ho detto più di una volta, la colpa non è né di Walter, né la colpa di Gianni, la colpa di Gianni, gliel'ho detto, già, tu non ti ritrovi bene il cane, ma se tu li abiti a uscire fuori dal cancello per fare la passeggiata, come dici tu, che gli dico, sì, ma io quando li chiamo vengo, eia, ho capito, ma tu li stai dando modo di andarsene dal loro posto, no, è sbagliato, tu devi far fare la passeggiata lì, è già grande il posto, quindi... Lo deve portare a passeggiare, anche poi un ettaro di terreno e chi lo deve portare a passeggiare, i cani stanno solo in giro, grazie a Dio corrono, fanno, giocano, cosa mi portarli fuori? È certo che la colpa è la sua, se tu lo abitui, questo è il cancello, aiò, andiamo, è dei sani, andiamo, cazzo lì si può uscire, aiò e partiamo, come vedono il cancello aperto parto da soli. E allora, gli ho detto più di una volta, e purtroppo ormai l'abitudine sono, se addirittura saltavano la rete da 2 metri, si arrampicavano come una scala, cioè a tipo ragno. E infatti già si è abbetto una o due volte rubato il tedesco. Tu pensa che il mio, adesso non so cosa è successo nel mio, però per fortuna mia, claro, per fortuna che ho messo questa sensazione su Facebook e tramite la storia del mio ex collega di lavoro mi ha chiamato. Quando ho sentito il nome gli ho detto, tu sì, la figlia di Michele, mi ha detto sì, ha detto ah grazie, ciao, li hai visti? Mi ha detto no, non li ho visti io, ti metto in comunicazione con una persona che abita lì vicino. E allora mi ha dato anche un altro numero di telefono, questa qua addirittura li ha visti lì dove lui era in una cunetta affaticato e l'altro che gli faceva la guardia. Vabbè, la sera vado con la macchina di volta, mi sono andato perché non c'avevo altra macchina. La sera a volo, cercando, ho detto, erano qua, ho detto, boh, davvero. Vabbè, ma la farò, vado appena più avanti e ti vedo il posto tedesco subito, che ha visto la macchina, mi ha riconosciuto subito, era contento. Ma non vedevo l'altro, non vedevo il rottweiler. Alla fine mi sono messo a cercare delle inciambate, in ciabatte, visto lavoro con inciambate, l'erba alta alle ginocchia, tutto bagnato, piovendo, cercavo, ho detto, boh, lo cerco, come faccio a chiamare? Quando non veniva. A un certo punto mi avvicino a una casa vecchia che era lì, mezza abbandonata, ho chiesto permesso, non c'era nessuno, vabbè, con la luce del telefonino e non vedevo niente, chiamandolo, a un certo punto mi giro e vedo una sagoma nera seduto guardandomi. Mi ha guardato, Argo vieni qua, non ci veniva. Sono andato io, l'ho preso e tramite il collare l'ho portato vicino alla macchina e l'ho messo in cofano. Ui Claudio, vado a casa, chiamo il veterinario, lo metto sopra il tavolo, lui non ce la faceva neanche a camminare. Ho detto, cosa è successo a questo cane? Praticamente era tutto aperto nel collo, tutto aperto sino a sopra, bucato, le zale, non so se me l'hanno investito, se si è affarato con un paio di cani, se è un filo spinato di squarciato la gola, non so niente. Per carità, meno male, e quello lì è quello che è morto? No, meno male, sono riuscito a salvarlo, perché ho chiamato il veterinario subito, gli ha dato un antidolorifico, antibiotico per un paio di giorni, per 6 giorni, e poi mi ha detto l'unica cosa da fare adesso disinfettarlo e basta. Addirittura mi ha detto farò la varichina, non fare altro, non ti mettere a comprare niente, prendi un po' di varichina, un bicchiere di varichina e 3 bicchieri di acqua, gliela mischi e gli fai gli impacchi e diciamo che in giro di poco tempo si è ripreso. Ma ti dirò la verità che la puzza che aveva del siero era una cosa, infatti dormiva fuori. Per carità, guai, sono così, mi ricordo il pastorettesco di Vatte, tutto abbetto la goscia. Mamma mia com'era, cazzo, per carità, guarda. No, ma il Border Collie non lo trova più. Se è entrato dentro qualche casa, se l'hanno dentro. Se l'hanno tenuto, oppure è morto da qualche parte. Sicuramente è morto da qualche parte, anche perché ultimamente mi ha detto a Vatte non era in grande forma. Non lo so, non lo saccio, vabbè, però ti ripeto, io sogo ancora i varioni perché ho le ciotole, ho il guinzaglio, ho quelle cose, quando le vedo, infatti le ho conservate, non le voglio vedere, mi fa ancora male, però è così, già non era giovane, come amato veterinario, stai tranquillo, cioè il cane ha vissuto bene, purtroppo quando ci sono le malattie prendono anche a loro, e non soffri, non si lamentava Buzzinuccio, non si lamentava, mai l'ho sentito lamentarsi, però lo vedeva in grande difficoltà, e vabbè. Sì, sono le 8:10, vado a mangiare e poi mi guardo un po' di TG, dai. Ci sentiamo, fai un saluto a tutti, circolare lì a casa, saluta Megavino quando rientra e già ci sentiamo, ok? Quindi in FM senza processore, confermi? E in AM col processore. In AM la battaglia, lo sai, no? In AM, vai, ti voglio sentire in AM, vai.